continuare a starmi vicino, farmi sentire un bambino, rifacciarmi una vita di esperienze lontane ormai spente, come se non fossero niente. E amati, cerca di andare lontano. Amati, cerca di stare lontano. Amati.